Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. You've been talking on the phone and I'm an insect on the road. Inside of the borderlands and you see my ballot board. But I'm running cold, I'm lady ass to the rest of us who rip what you have sold. So don't try and touch my upper love and support. I look you straight in the face and maybe brother you for drugs. Just see a kid, it's no protection. When are you locked in this warrior's favorite weapon? I don't see no cops around. No cameras in this part of downtown. I don't see no witnesses. Justice is blind, but my you lock never misses. To my eye, bing bing on your skull. See your eyes got dull. This is the you love justice. The cold of the concrete. Your hands decided that you and I shall meet. Relax, you let me feed in the suit and talk it. We sell the chill and the potion to the walker. You know that I'm no use to worry, but I have some fun. Now it's ever burning like the sun. I don't see no cops around. Cameras in this part of downtown. Get a raise. Go! Giunti quasi alla siepe, i ribelli si accorgono che dal campanile di una chiesa che affaccia sopra di loro ci sono due insect che li stanno seguendo con gli sguardi. Eccole quelle merde! Il primo dei ribelli, che ha notato gli insect, mette i suoi compagni in allerta. Dove? Sul campanile, sicuramente stanno aspettando i rinforzi. Bisogna attaccarle prima che arrivi tutto il resto dello sciame. I ribelli non sanno però che ammazzare gli insect sul campanile non servirà a metterli a sicuro, perché le telecamere oculari degli uomini vespe stanno mandando le informazioni a tutti i loro colleghi e alla torre M. In meno di un secondo partono le raffiche di mitra contro gli insect, che vengono quasi presi alla sprovvista da parte dei ribelli. L'alto del campanile viene avvolto da una forte nube di polvere che è generata dalle mura scheggiate e frantumate dei proiettili. I due insect precipitano giù a peso morto e si vanno ad inforcare sugli spuntoni della parte alta del cancello di recinzione del campanile. Arrivati alla siepe, sempre in stato di allerta, Mac ed Ashlyn si dirigono immediatamente a controllare i corpi di Atin e Tova, sperando che almeno uno di loro due fosse ancora vivo. Ma si accorgono subito che i loro due compagni sono morti sul colpo per le ferite dei proiettili alla testa e alla schiena. Mettiamoli sotto la siepe, con una voce rotta dal pianto, Rose, che non ha nemmeno il coraggio di guardare, chiede ai suoi due compagni di dare sepoltura alla sua amica Tin, oltre che compagna di lotte, e Tova. Rose, lo abbiamo fatto con gli altri perché pensavamo di aver tempo a disposizione, ma ora non è più il caso, ed inoltre sono morti, o sottoterra o in superficie, non cambia nulla. Ashlyn si rivolge ad Rose in modo molto delicato, ma riesce a convincere la sua stessa compagna che la sepoltura non serve a nulla se non a conservare il culto della carogna. Ha ragione la bambina di fuoco, andiamo via alla svelta da qui che siamo quasi arrivati alla torre, sento le urla forti della gente. Beppe è d'accordo con Ashlyn, che però non gradisce una parte delle sue parole. Beppe, per favore, ho superato la fase adolescenziale, quindi preferirei la ragazza di fuoco e non la bambina. E meno male che permalosi sono i rossi, e giù una risata di Beppe. I sei ribelli prendono i corpi di Atin e Tova e li mettono, come era accaduto anche per Alni e Valerie, sotto la siepe. Non c'è un motivo a questo modo di seppellire i loro compagni, ma solamente il di nascondere i corpi per non mostrare il loro passaggio da quel posto. Ma le brutte notizie per il refrattario non sono finiti. Aghi non è riuscito nemmeno ad arrivare all'ospedale ed è morto a metà strada sulle spalle di Coram, il quale con gli altri due ribelli ha nascosto il corpo del suo compagno dietro il portone di un palazzo e si sono diretti verso la Torre M. Anche i sei, che erano con Atin e Tova, si sono appena mossi nella stessa direzione e quando arrivano al piano della tensione che vede i rivoltosi schiacciati tra i Tarspok a protezione della Torre M e quelli arrivati come rinforzi governativi, riescono appena a salutare Coram e gli altri due ribelli che sono già là da qualche minuto e a sapere la notizia di Aki che i due camion si fanno varco tra la gente e puntano verso i Tarspok in entrambi i lati. Ormai non fa più effetto se non il dolore che provoca nei primi istanti la morte dei propri compagni da parte di Refractarius. Così la morte di Aki non ha nemmeno il tempo di realizzarsi nella testa del suo migliore amico Mark, che due forti esplosioni fanno volare a terra buona parte dei rivoltosi. I ribelli restano storditi a terra per qualche istante, poi increduli si guardano in faccia uno con l'altro mentre ogni tanto danno uno sguardo alla Torre M devastata, fumante e la gente inferocita che cerca di entrare dentro per mettere definitivamente la parola fine alla sua esistenza. Ecco le pecore, Mark! Coram, sporcato di nero sul viso per il fumo e la polvere che si è alzata dopo la doppia esplosione, si rivolge a Mark con un sorriso a 32 denti. Coram, sono arrivate prima perché noi eravamo in campeggio sul Vesuvio. Mark accetta la battuta di Coram e risponde con una scusa altrettanto ironica. Datemi Navig, per favore, esclama Rose. Vattela a prendere, Rose, è tutto tuo, il grande sorcio, risponde Ashlyn. Come dei bambini felici, Refractarius con Beppe e gli altri ribelli si fanno spazio tra la gente per entrare nella Torre M, che si regge in piedi per scommessa dopo i chili di tritolo che l'hanno messa a knockout. Entrati nella torre, i Refractarius non riescono a credere a ciò che vedono. Poi, all'improvviso, sono attratti da una voce. «Ehi tu!» «Igen, fratello, mi chiamo Igen!» I Refractarius hanno riconosciuto una delle voci. «A me sembra la voce di quel testa di cazzo di Soba!» afferma Mark. «Anche a me sembra lui!» «Ma dov'è?» risponde Coram. Coram non ha nemmeno il tempo di finire la sua domanda, che la sente la direzione della voce che è alle sue spalle, verso le scale che portano agli uffici superiori. Io sono Soba, a piacere. Sopra, se non erro, c'è il colpevole di tutto quello che abbiamo subito fino ad oggi. È vero che la rivolta l'abbiamo fatta insieme, ma se posso, vorrei regolare io il conto con Navig. Soba, non so cosa hai da regolare tu con lui, ma anche io e gli altri dovremmo regolare il conto con lui. Era uno degli azionisti del termovalorizzatore dell'area nord. Higen, quella è una vita che ci dà la caccia, a me e agli altri miei compagni, e credimi che molti dei nostri che sono finiti nelle sue mani e di quel pezzo di merda di Lerit a Carcelia non se la sono passata proprio bene. Ok fratello, ti prometto che se capita per primo nelle mie mani, aspetto te per finirlo. Soba dà una pacca sulla spalla all'intossicato, che è almeno mezzo metro e 20 kg in più rispetto a lui. Eh no fratello, il conto lo regoliamo anche noi con quella merda lassù. Mark dalle spalle di Soba, con un tono molto basso e accompagnato con uno scappellotto, spaventa quasi il suo compagno. Soba, che era rimasto solo dal giorno che si erano separati in gruppi ed era stato quasi sequestrato da Tarspok, è incredulo alla vista dei suoi compagni. E che cazzo ci fate voi qua? Sono le prime parole ad uscire dalla bocca di Soba, che quasi non riesce a parlare. Sai com'è, ci avevano detto che c'erano delle visite guidate per il centro della città e al museo della Torre M e siamo arrivati. Poi una mezza pausa di Coram e dopo, ma che cazzo di domande fai, Soba? E giù altre risate da parte di tutti. Amici, regoliamo subito i conti ai piani superiori, perché dopo questa ci arriva la riserva nazionale. Higgen si rivolge a Beppe e a tutto il gruppo di Refractarius, invitandoli a salire con lui. Thank you. Radiazione 5 gennaio 2015, abbiamo cambiato anno, ma la radiazione non cambia le dirette. E come tutti i lunedì, oggi è giornata di letture e controinformazioni. Abbiamo iniziato con 013, seguito dal brano appena ascoltato, che è Nube Tossica, che è il CD che un giorno andrà ad accompagnare il libro di 013. E che andranno benefit sempre quando uscirà per i compagni detenuti. Allora, dicevo, oggi giornata di letture, stiamo leggendo Nessuno ci salva, siamo arrivati già bene alla metà del libro, invece con Na 013 per oggi finiremo, abbiamo iniziato e finiremo con la fine di Na 013. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare materiale da poter pubblicare sul sito della radio, che è radiazione.org, oppure per mandare anche dei consigli sui futuri libri da leggere su Radiazione nel lunedì di lettura, dove leggiamo solo testi di narrativa, romanzi con bene o male tematiche affine a quelle, ai temi trattati sul sito di Radiazione. Quindi non ci consigliate i testi anarchici, perché li conosciamo a memoria. Allora, il sito di Radiazione è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata e dove potete anche riascoltare le dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast, o scaricarvi un bel po' di materiale attraverso la pagina di download. Ci trovate opuscoli, CD, libri, tutto quello che i compagni a livello internazionale mandano a Radiazione per farlo diffondere gratuitamente senza una lira. Poi sta a chi lo diffonde, lo scarica e lo diffonde, mandare i soldi alle casse che sono a sostegno dei compagni detenuti. La radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione dal compagno di Anarchist Library, che ringraziamo e salutiamo sempre come in ogni diretta. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Cocktail Rain, il brano è The Moment, e poi dopo si torna qui e si inizia subito la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. We'll be right back. Allora, nessuno ci salva, Sergio Spiasecki. Oggi tocca a chi ci ascolta il riassunto minimo delle puntate precedenti, perché non abbiamo avuto modo di mandarvi le letture della puntata scorsa, perché per cazzi nostri, sostanzialmente. E siamo arrivati, la volta scorsa abbiamo visto come Jan, uno dei protagonisti del romanzo che stiamo leggendo, fa conoscenza con la sbirraia, addirittura viene arrestato, viene chiuso in una gatta buia, ma per fortuna riesce ad evadere. E quindi adesso è boia d'un destino, ladro. Tonio, detto il turco, e Siron, due ladri di secondo ordine, avevano deciso di fare una spedizione in un villaggio che si trovava qualche decina di chilometri dalla città. Scopo della spedizione era niente meno che il ratto d'un maiale, segnalato loro da un contadino che in tal modo voleva vendicarsi di un ricco fittavolo col quale aveva una vecchia lungine. I due compari progettarono di andarci con tutto comodo, riposandosi lungo la strada, e di arrivare alla fattoria verso sera e per poi liquidare il porco durante la notte. Dato che dovevano portare con sé gli arnesi del mestiere ed erano conosciuti da più di una spia, uscirono dalla città prestissimo, ben prima dell'alba. La strada passava attraverso il grande e bellissimo bosco dell'arcivescovado. Per un uomo inghiottito dalla città, che non vede mai nell'alba né il tramonto né lo spegnersi delle stelle del crepuscolo del mattino, la natura sembra non esistere affatto. Ma in quei figli della libertà che sono i ladri, la sensibilità rimane intatta. Indipendenti e ingenui come fanciulli, essi guardano trasognati e con occhi nuovi gli spettacoli naturali, ma hanno vergogna di confessarlo anche a se stessi. Mentre attraversavano un'ampia distesa di prati, a sinistra, tra i tronchi radi delle betulle, incominciarono ad apparire nel grigio antelucano luminose strisce rosate. Trapuntando il velo perlaceo della nebbia, lasciavano qua e là fiumi che effondevano sempre più in alto. Improvviso, le cime degli abeti si accesero di una luce dapprima pallida, poi di un rosso vivace. Come se si fossero accordati, il turco e Siron sedettero sul tronco d'un gigantesco pino che l'uragano aveva abbattuto dopo 200 anni di vita e di lotta silenziosa. I due ladri tirarono fuori il tabacco e si arrotolarono una sigaretta. «Guarda, sembra sangue», disse quasi bisbigliando Siron. Là, dove erano diretti i loro sguardi, si stendeva una coltre color lampattata sul tappeto verde dell'erba. I due compagni si alzarono e continuarono il loro cammino. Verso mezzogiorno fecero un'altra sosta per tuffarsi nell'acqua di un ruscello che attraversava il bosco. Poi si addentrarono nel folto e si misero a raccogliere le nocciole che, in quantità inverosimile, scoppiavano fuori dai cespugli di avellana. Dopo che se ne ebbero riempite le tasche, uscirono di nuovo su una bellissima strada forestale. Volevano giungere a destinazione non prima del crepuscolo, perché nessuno, proprio nessuno, notasse il loro arrivo. Siron faceva da guida. Era appunto lui che aveva combinato l'affare del porco con un suo cliente che aveva già comprato da lui un cavallo e una mucca. Era inteso che anch'egli avrebbe avuto la sua parte di carne quando il maiale fosse stato macellato. Ad un certo momento Siron si accorse di aver smarrito la strada. Non volle confessarlo al compagno, ma si perdeva sempre più nell'intrigo dei sentieri e finalmente si arrese. «Non ho la minima idea di dove ci troviamo». «Pazienza, dai, tiriamo avanti, arriveremo, bene, sì, sicuramente in qualche villaggio dove potremo chiedere la strada». Presero il sentiero più battuto e tirarono avanti. Le ultime luci del tramonto si erano spente, il crepuscolo avvolgeva ora la terra, faceva già buio quando avvistarono un villaggio. Raggiunte le prime case, Siron disse al compagno: «Aspettami qui, andrò io a informarmi che paese è questo». Lasciò il turco vicino allo steccato di una cascina ed entrò nell'aia. La luce di una lampada a petrolio ammiccava debolmente attraverso le impannate, ma non era possibile distinguere nulla all'interno perché le finestre erano velate da tendine di tela. Il ladro allora entrò sotto il portico e a tastoni trovò la maniglia della porta, l'aprì e si trovò in una stanza dove alcuni contadini sedevano attorno ad un tavolo. Una donna, inginocchiata presso il camino, era affaccendata a friggere ciambelle in un'enorme padella. In mezzo alla tavola c'era una bottiglia d'acqua vita mezza vuota. Altre bottiglie, già vuote, erano allineate sul davanzale della finestra. Era evidente che quella gente si era riunita per festeggiare qualche ricorrenza. Siron salutò con garbo e chiese il nome del villaggio. Dove vuoi andare? Chiese uno dei contadini. Siron nominò una fattoria che si trovava poco distante da quella da cui erano diretti. Allora si alzò uno degli uomini più grande e grosso di tutta la brigata e avvicinandoglisi disse: sono io, il padrone di quella fattoria, che cosa volete? Interdetto Siron non trovò subito una risposta, ma riprendendosi disse con disinvoltura apparente: mi hanno detto a Minsk che dalle vostre parti c'è molta lana da vendere e vorrei comprarne un grosso quantitativo. Allora si alzò un altro uomo, basso di statura, dagli occhi irrequieti e mobilissimi, dalla bocca contorta in un sorriso beffardo, e anche egli si avvicinò a Siron, che già puzzava di alcol. Gente! Esclamò rivolgendosi verso gli altri. Questo qua non può essere che un ladro, chi altro scorazzerebbe così di notte? Ma che cosa dite? Protestò Siron, ma non ebbe il tempo di aggiungere altro. Qualcuno gli sferrò un colpo sulla nuca, stendendolo a terra. Sentì in bocca il sapore del sangue. Quando si riebbe, si vide circondato da un gruppo di uomini che lo fissavano minacciosi. L'aria era impregnata di esalazioni di acquavite. Quei volti bonazzi si chinavano sempre più su di lui, guardandolo con occhi cattivi. Chi mi ha rubato la tela dalla cassa panca? Parla! Rantolava un contadino, premendogli la gola con la mano ossuta. Siron non poteva tirar fuori la voce, negò disperatamente quei gesti, tentò di parlare ma non gli fu possibile. Nessuno lo ascoltava e la morsa che gli serrava la gola si stringeva sempre di più. Un cieco e sadico furore si impadronì di quegli uomini. Potevano seviziare e colpire senza timore di rappresaglie. Non era forse un delinquente quello che avevano tra le grinfie? E allora Siron sentì una gragnuola di pugni abbattersi su di lui. I colpi si succedevano accaniti, furiosi. Tentò ancora di gridare, ma si rese conto che non c'era salvezza per lui. Era la fine. Il terrore di una morte così atroce e stupida si impadronì di lui. Intanto, il turco, preoccupato di non veder tornare il compagno, saltò lo steccato dalla parte della strada e si avvicinò cautamente alla finestra. Questa non era velata di tendine ed egli poté vedere oltre i vasi di geranio all'interno della stanza debolmente illuminata dalla lucerna e dal bagliore del camino. Strane sagome scure si agitavano, proiettando grandi ombre sui muri. Era difficile capire in verità quello che stava succedendo. Lo comprese solo quando gli giunsero all'orecchio i gemiti disperati di Siron. Il turco fremette dall'orrore. Nella testa gli turbinavano confusi pensieri più assurdi. Cosa è successo? Non avrà tentato di rubare lì dentro, non ha neanche addosso gli strumenti, allora perché? Stringeva i pugni impotente. Ah, se avessi una pistola! I suoi occhi, ormai abituati alla scarsa luce dell'interno, distinguevano ora chiaramente la scena selvaggia che vi si svolgeva. Udì dei passi risuonare nell'aia. Altri uomini entrarono, ma invece di opporsi al linciaggio dello sciagurato Siron, si unirono ai seviziatori. Era bastata la parola ladro per scatenare gli istinti sanguinari di quelle belve umane, sempre pronte a uccidere un loro simile quando si presentava l'occasione di farlo impunemente, e a quegli istinti si abbandonavano con sadica voluttà. Siron non aveva più la forza di gridare, rantolava. Il suo volto, rosso di sangue, era reso irriconoscibile dalle percosse. Un occhio pendeva dall'orbita, attaccato al tendine, fatto schizzare fuori dal colosso che lo aveva colpito per primo. Nessuno dei suoi carnefici parlava, non ne avevano il tempo neppure per ingiuriare la vittima. Percuotevano alla cieca, inferociti, accaniti, intenti solo a colpire più forte, sempre più forte. Siron non aveva più un osso intero in tutto il corpo. Il suo rantolo diventava sempre più rauco, sempre meno percettibile. Qualcuno portò un'asse e il corpo di Siron, con la faccia rivolta a terra, venne coperto con essa. La scura balenò nell'aria e si abbatté con fragore sull'asse, facendo volare da ogni parte le schegge. Quei demoni se la strappavano di mano per poter colpire almeno una volta. Siron non si muoveva più. Era morto. Questi erano RTPN con il brano Blind Terror. Dopo la prima lettura di oggi di Nessuno ci salva, ora si ripassa come si passa alla, come di consueto alla controinformazione. Si parte subito con un testo edito dal sottoscritto, quindi a firma Radiazione, dal titolo Fuoco o solo chiacchiere. Solidarietà per gli anarchici non ha che un solo ed unico significato: attacco. Fiumi di parole stanno scendendo a valle, riempiendo il lago dell'idiozia dove confluiscono le varie acque già da tantissimi anni. Ogni singola goccia di quelle acque sono lacrime di cordoglio verso chi non c'è più su questo pianeta di merda o chi viene ibernato per qualche mese e anno nelle fredde patrie galere degli stati. La speranza che il lago dell'idiozia prima o poi si riempisse e trasbordasse oltre il proprio letto per inondare i recinti preimpostati dalle democrazie è diventata una fiaba da raccontare a più giovani per non rimanere soli, isolati e per continuare ad aggiornare un curriculum vitae di lotta, con un punto interrogativo tra parentesi. Sono anni che ci ripetiamo, la solidarietà non è cosa scritta. Sono anni, e mi rivolgo sempre al territorio nazionale dove vivo, che la solidarietà è sempre rimasta parole da scrivere su un comunicato, un telegramma in carcere, sulle mura della città, negli slogan urlati in presidi e manifestazioni. Chi ha preferito esprimerla in tutto il suo significato ne ha dovuto pagare il conto presentato dalla repressione, e da loro, coloro che invece delle parole di circostanza hanno preferito il fuoco e la polvere nera, che ora sono indirizzati questi fiumi di lacrime incoerenti. Noi che siamo fuori fingendo di essere liberi, noi che siamo gli autori di tante lacrime versate sulla cellulosa o sulla tastiera, noi che continuiamo a vivere sperando che prima o poi qualcosa accadrà, cosa impossibile se non saremo noi stessi primi a muovere il culo dalle sedie, noi che invece di fare di dare un nostro apporto pratico, quindi su ennesimi fiumi di parole. Noi tutti a piede libero siamo l'incoerenza più becera che possa esistere, e se non crediamo ai concetti della giustizia, di colpevolezza e innocenza, dentro di noi non fare un passo oltre le sedie. Noi tutti dobbiamo sentirci colpevoli della lunga prigionia dei nostri compagni. Non è più tempo di fare i Ponzio Pilato dell'anarchismo, non è più tempo di lavarsi le mani con una frase su un muro, sulla carta o urlata. Non abbiamo bisogno del numero per agire, quindi non abbiamo bisogno di avere i passati futuri nemici accanto a noi, tantomeno di unirsi tutti insieme appassionatamente in assemblee che ricordano il muro del pianto. L'agire non ha bisogno né di numeri né di assemblee. L'anarchismo inizia con la liberazione dell'individuo. L'agire o ce l'abbiamo dentro o lo mettiamo in pratica oppure siamo tutti parolai. Dalla repressione molte volte, ora è arrivato il tempo di iniziare almeno a fare il vento. Se poi riusciamo a farlo e nello stesso tempo distruggendo qualche loro attività, ancora meglio. Chi pensa che i tempi non siano ancora maturi resterà disabile a vita. Chi dice che i tempi non siano ancora maturi, invece, sarà per sempre un'umile pecora rinchiusa negli ampi. Pensare che agire e dare il proprio apporto all'insurrezione significa riempire gli scaffali o banchetti di libri, organizzare cene o concerti benefit, fare un sito web o un giornale di carta, inondare le celle dei nostri compagni detenuti di telegrammi e di cordoglio. Bene, chi pensa tutto questo e non vuole rischiare le proprie proprietà private, tra virgolette, resterà per sempre un prete o un umile uomo o donna di fede che si prende in giro raccontandosi che con le preghiere si risolve tutto. La solidarietà è pratica. Partendo da tale concetto, penso sia arrivato il momento di fare la scelta da che parte si vuole stare, e le alternative non sono tante, sono solo due. 1. Mettere in pratica tutto se stessi e non a parole per la distruzione totale e la liberazione totale. 2. Rimanere fermi a parlare, piangere, chiacchierare, infangare, criticare, sperare che arrivino i tempi maturi senza che la gente si spaventi, rimanere umili pecore nei recinti dello Stato, accettando pascoli impostati e dando in questo modo il proprio consenso silenzioso all'esistenza dello Stato. Abbiamo subito già tutti una grande violenza, quella di essere stati messi al mondo, a questo mondo. Ora è arrivato il momento di mettere fine alla volontà altrui e sbattergli in faccia la nostra di volontà. Radiazione, gennaio 2015. Poi ho messo una nota sul sito Fare il Vento, che è un'espressione usata per scappare da ristoranze senza pagare il conto. Questo scritto di radiazione, a cui non aggiungo nulla, penso di aver detto tutto. Ci ascoltiamo un brano, loro sono il Cabinet con il brano Expectation, e poi dopo si torna qui e ancora la lettura di Sergius Piasecki con Nessuno ci salva. I'm cracking up. D'un tratto l'intelaiatura della finestra cedette sotto un potente colpo e una grossa pietra irruppe nella stanza, subito seguita da un'altra e da un'altra ancora. Inferocito, con gli occhi pieni di lacrime, il turco scagliava una valanga di pietre contro gli assassini. Con mossa fulminea, tirò fuori dalla borsa l'arnese più pesante che aveva, un grosso piede di porco, e con balzi felini si precipitò verso l'uscio tenendo nella mano sinistra la pila elettrica accesa. Era certo che i contadini, di fronte a un pericolo di cui non conoscevano l'entità, si sarebbero dati alla fuga, anche perché uno dei sassi aveva raggiunto la lampada e la stanza adesso era immersa nell'oscurità. Non aveva sbagliato. Passato il primo istante di perplessità, un terror panico si impadronì di loro. Tutti si slanciarono verso la porta. Il turco colpì il primo che uscì col piede di porco, facendolo stramazzare a terra. Poi fu la volta di un altro, che pure si afflosciò ai piedi del turco, invisibile dietro il fascio di luce della lampadina. «Aiuto! Aiuto!» I contadini rincularono bruscamente nella stanza, urtando le sedie, rovesciando ogni cosa e calpestando il cadavere di Siron. Si slanciarono tutti alle finestre per poter sconvolto dall'orribile spettacolo e fremente d'ira, il turco, con il piede di porco in mano, attraversò l'aia del cascinale e, protetto dalle tenebre, abbandonò il villaggio, dal quale gli giunsero ancora per qualche tempo urli di richiami. Tutti i cani del villaggio latravano furiosamente e echeggiò anche qualche sparo in lontananza. Il turco ora correva per campi e boschi nella direzione da cui era venuto. Soltanto verso mezzogiorno del giorno seguente, dopo un lungo vagare, raggiunse la città e andò subito dai suoi amici della mala e raccontò a loro tutto quello che era successo. Essi gli fecero bere qualche bicchiere di vodka e lo misero a letto. Caddero sul compagno scomparso. Siron era stato un ladro del dopoguerra. Prima aveva lavorato nelle ferrovie come casellante. Nel 1915 era stato ferito al fronte e quindi congedato. Tornò allora a Minsk, dove aveva lasciato la moglie e 3 bambini. Andava per le campagne a comprare burro, uova, formaggi e polli che poi rivendeva in città, provvedendo così al misero sostentamento della famiglia. Un giorno, un contadino gli propose di rubare la mucca del suo vicino e di portarla a un suo parente che abitava nella parte opposta della città. Spinto dall'indigenza estrema in cui si trovava, Siron acconsentì e, aiutato dal contadino che gli aveva dato tutte le informazioni necessarie, riuscì nell'impresa. Qualche altra occasione del genere gli si presentò in seguito e fu così che Siron divenne ladro di campagna. Quelli che l'avevano ucciso, insomma, erano gli stessi che più volte avevano comprato da lui bestiame rubato, ben felici di concludere un affare vantaggioso anche se losco e anche se ciò tornava a danno dei loro vicini. I dritti rimasero impressionati per l'orrenda fine del povero Siron. Se la presero col turco, ingiuriandolo e rimproverandogli di essersi avventurato in una simile spedizione disarmato. Ma non lo sai avere almeno una pistola nella cintura? Alla moglie di Siron consigliarono di sporgere denunzia alla polizia, raccontando che suo marito, un onesto rivenditore che andava in giro per le campagne, era stato ucciso. Il villaggio venne identificato. La donna, in preda ad uno shock nervoso, fece come le suggerivano i compagni di suo marito. E così la polizia poté accertare che, infatti, quella sera era stato ucciso in quel villaggio un ladro, così affermavano i contadini, colto sì in flagrante, ma non esisteva una sola prova che confermasse quella versione. Il cadavere di Siron fu rinvenuto in un mucchio di letame completamente nudo. Era stato spogliato di tutto, a cominciare dall'orologio che portava al polso. La polizia stese un verbale che prese la solita via burocratica. La salma di Siron, riportata a Minsk, venne tumulata nel cimitero della collinetta d'oro. Da quel giorno i dritti presero sotto la loro protezione la famiglia dello scomparso, aiutarono la moglie ad aprire una botteguccia nella via della Chiesa Bianca e per molto tempo si interessarono alla sua sorte e a quella dei suoi figlioli. Il turco girò davanti ai suoi compagni che avrebbe vendicato l'amico. «Tingerò di rosso il loro villaggio, vedrete, non la passeranno liscia quelle canaglie!» E infatti, un mese dopo, in una buia notte autunnale, il paese divenne preda ad un incendio sviluppatosi chissà come e dove. In pochi minuti le fiamme divamparono da ogni parte, avvolgendo l'intero villaggio in un immane rogo. E ciò si ripeté in seguito quasi ogni anno, nei giorni vicini all'anniversario della morte di Siron. Electricity is fiction. Electricity is fiction. Do electrons think? Electrons are charged particles. The minutest we find in analyzing the ultimate constitution of matter. Electricity. It's fiction. To think that such a particle can think is so absurd. That I might give the answer no and have my talk over. Electricity is fiction. Electricity is fiction. Electricity is fiction. Questi erano Alvanota e Briggs Bugged con il brano Electricity is Fiction. Ora si ritorna alla controinformazione con un testo che abbiamo trovato su un altro sito e lo abbiamo deciso di pubblicarlo perché ne valeva la pena. Testo che ha per titolo Tristezze anarchiche sui sabotaggi e lamenti che ne conseguono. Il testo inizia con una citazione di Oscar Wilde che dice: a volte è meglio tacere e sembrare stupide che aprire bocca e togliere ogni dubbio. Tanto per cambiare, ci risiamo. Sembra proprio che certi anarchici, ormai assuefatti dalla poppata socialdemocratica dal seno dei movimenti popolari, non riescono proprio a farsi una ragione del fatto che ci siano altri anarchici che decidono di utilizzare altre modalità rispetto a quelle che loro, depositari evidentemente del giusto e dell'utile, ritengono lecite. Ci risiamo e nuovamente, dopo lo sceno teatrino TV dei preti faisti, sentiamo ripetere: un compagno non può averlo fatto. Ma lasciando uno spiraglietto al dialogo con gli eventuali esecutori del fatto, ci riferiamo alle Ate Bologna, i nostri dai microfoni di Tutto Squat, trasmissione in onda su Radio Blackout di Torino, si augurano che questi si siano accorti nel caso proprio di aver fatto una cazzata colpendo i poveri pendolari. Diavolo, siamo un notav, ma i treni ci piacciono assai. Chissà quanti diorami avranno questi rivoluzionari nelle loro camerette. Ebbene, ovviamente ognuno può giudicare più o meno riuscita un'azione, può anche comportarsi da sindacalista della rivolta, conteggiando da scribacchino quanti consensi una certa azione possa aver fatto perdere tra la massa, incurante se poi gli eventuali sabotatori possa o meno interessare quel che pensa il volgo. Però se da un lato pare strano che questi conti vengano fatti da un personaggio che ha pure in passato dimostrato simpatie per l'individualismo anarchico, che non può dirsi proprio popolare nell'eccezione divulgata, tanto da scrivere pure un testo di Stirner, è deprimente il modo in cui i nostri cari anarco-conduttori si siano spesi, con tanto di intervento telefonico di un anarco-leco, se si dicono in assemblea, altri mentre si non si fanno, un termine lunghissimo quello leggere sulla reazione, ad insinuare che per l'ennesima volta queste azioni dirette non siano altro che atti messi in pratica da alcune entità con il preciso intento di danneggiare il bel movimento del tecnocrociato unico depositario legittimo del sabotaggio buono, tanto popolare e apprezzato in tutto lo stivale. Insomma, che siano stati servizio, che siano stati compagni, il reato è quello di leso movimento, notav. E parliamo di reato, usiamo proprio questo termine che ai nostri dovrebbe essere quasi caro, visto come accettano di buon grado di stare fianco a fianco, popolarmente si intende, con magistrati del calibro di Imposimato, che come loro si spende per rassicurare l'italico sul fatto che queste azioni non possono essere ascrivibili al popolino notavico. E su questo possiamo anche essere d'accordo, non è necessario essere notave condividerne percorsi, discorsi e modalità e tempi per lottare contro la velocità e il modo e il mondo che esso disegna, come non è detto che decidere di attaccare un nodo ferroviario significa necessariamente riferirsi ad una lotta che, per quanto estesa e condivisa, non rimane che una vertenza locale, ma chi ha agito può altresì aver deciso di colpire un simbolo per motivi che magari possono sfuggirci, ma che nella testa dei compagni sono ben chiari. Il periodo e certe incongruenze sotto le feste non si fa, inneschi ballerini farebbero supporre ai nostri che si tratti null'altro che di un bluff della reazione atto ad infagare la citata bandiera. Chissà Bruno Filippi cosa penserebbe sentendo sminuire così l'operato di chi magari ha soltanto fatto un errore tecnico meno grave del suo. Orbene, con l'affare di Nolfi i faisti presero un bel granchio, condito dall'ammentio su Rai News 24, piangendo all'anarchismo ferito su uno dei media di regime che evidentemente sono da viturpare finché non servono per togliersi dall'impiccio. Ma come allora la vecchia Tokarev ci sembrò un bel po' lampo di luce nel grigiore di questa società caserma, oggi a scaldarci in questo inverno sono arrivati gli stracci imbevuti di benzina, con buona pace dei socialdemocratici in bandiera rosso-nera. Il testo è filmato da un M puntata che a noi ci piace e quindi abbiamo deciso di pubblicarlo. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono di Algoritmo con il brano Synthesizer e poi dopo si ritorna qui con ancora un'altra lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Fu un brutto autunno quello per la mala di Minsk. Molti cascarono in trappola durante le imprese meno rischiosi, altri, mentre sedevano pacificamente a tavola in compagnia di amici, oppure passeggiavano per le strade senza nessuna malvagia intenzione. Molti sloggiarono dai covi visitati sempre più spesso dalla polizia che vi operava fermi e arresti indiscriminati e andavano ad abitare presso famiglie di merli. I più audaci, che non volevano rinunziare al lavoro, andavano con i piedi di piombo e ci pensavano 100 volte prima di buttarsi in un'avventura. Fedka Luzzaro, ad esempio, che a suo tempo aveva organizzato il furto del fabbricante di latticini, stava poco bene. Gli faceva la pallottola di carabina durante la sua fuga da Smolensk. Camminava, aiutandosi con un bastone, ma la maggior parte della giornata la passava seduto nella sua stanza. L'aveva presa in affitto presso una famiglia che naturalmente ignorava chi fosse il nuovo inquilino. L'indirizzo gli era stato dato da Ignazio. Lussaro sapeva bene di essere ricercato dalla polizia e cercava di farsi vedere il meno possibile in città. La casa dove abitava si trovava nel sobborgo della Bassa Lakovka. Vi abitavano un ferroviere che era però quasi sempre fuori, sua moglie e 3 figlie, delle quali la maggiore lavorava come commessa in un negozio di merceria e le 2 più giovani, che avevano poco più di 20 anni, stavano in casa ad annoiarsi. Lussaro, incapricciatosi della minore che si chiamava Zina, incominciò a fare la corte. La ragazza lo stuzzicava con le sue moine e si divertiva a fare la civetta con lui, ma sembrava che nei loro rapporti lo considerava come un possibile marito e, pur essendo di solito tutt'altro che inespugnabile, teneva il giovane ad una certa distanza sperando di invadirlo sempre più di sé. E infatti Lussaro, che per natura era di temperamento focoso, si infiammava ancora di più di fronte al contegno provocante della ragazza. Per trovare sfogo ai suoi bollenti spiriti si trovò una sgualdrinella che passava con disinvoltura da un dritto all'altro, abbandonandoli quando li aveva sfruttati fino in fondo o quando le si presentava qualche occasione migliore. Si chiamava Elisabetta ed era chiamata Lisa, non senza malignità, perché pur essendo giovane era piuttosto usata e sciupatella, anziché no. Era insinuante e morbida come una gattina e incominciò sempre più spesso con Lussaro a trovarsi e finalmente andò ad abitare con lui. Zina però di contro era inviperita con l'inattesa concorrente, soprattutto quando si accorse che Lussaro comprava a quella smorfiosa una quantità di bella roba che avrebbe fatto molto comodo anche a lei. Se ne lamentò con la madre. Quel mascalzone la testa, e ora conviveva come se niente fosse con un'altra. La mamma, che in certe cose era piuttosto navigata, le fece qualche domanda. Hai avuto dei convegni con lui? Hai concluso nulla. Che vuoi dire? Sei andata a letto con lui? Ah no, di certo, stupida, sentenziò la madre. E poi si lagna che se n'è cercata un'altra. Beh, non credevo che mi avrebbe sposata. Già, sarà completamente scemo. Con tutti i soldi che ha, dovevi sapertelo tenere stretto fin dal principio e poi, dopo, fargli sputare regali e quattrini finché volevi. Non tutte le notti Lisa si fermava a dormire con Lussaro. Diceva di avere da fare a casa sua, ma in realtà andava ad addolcire le dotati di maggiori attrattive per lei. Era diversa dalle altre ragazze che convivevano con i loro amanti della mala, non faceva mai nulla con disinteresse, era un egoista senza cuore. I dritti, invece, sono nelle prostitute che si legavano a loro, delle vere compagne, affezionate e premurose come le mogli più devote. In genere, una ragazza traviata che raggiungeva questa sistemazione non andava più a battere il marciapiede, e se l'amante finiva in galera, lo aiutava con tutti i mezzi, pagava gli avvocati, dava mance per fargli avere dei pacchi e talvolta riusciva perfino a liberare il suo uomo. Magari poi riprendeva la vita di prima, ma solo per procurarsi i mezzi di sussistenza. Non lo tradiva nel vero senso della parola e faceva tutto quello che poteva per lui. Era noto, per esempio, il caso di una ragazza che da 10 anni si occupava del suo amante detenuto nelle carceri di Santa Croce e aspettava che fosse rimesso in libertà lavorando in una fabbrica. Ma la Lisa non era di quella tempra. Era capitata nel mondo della mala per caso. Per lei un ladro non era che una fonte di lucro da sfruttare fino in fondo senza scrupoli. E allora Zina decise di approfittare del fatto che la Lisa non sempre si fermava a passare la notte con Lussero. Voleva tentare, con altri mezzi, la riconquista del suo ex corteggiatore, indotta a ciò non solo dall'avidità ma anche dalla gelosia e dall'orgoglio ferito. Quindi una sera Lussero sedeva presso la finestra che dava sul giardino, era appena cessata la pioggia e il tenero fogliame degli olmi, ancor tutto bagnato, stormiva leggermente. Egli era immerso in pensieri tristi, vedeva il proprio avvenire dipinto a colori foschi. Anche il pensiero della sua amante non era estraneo a quel suo momentaneo turbamento. Da un pezzo sospettava che lo tradisse. Eh sì, avrebbe voluto andarsene via, in giro per il mondo. Si sentiva addosso un'inquietudine che non riusciva a dominare, ma quella maledetta gamba non voleva guarire a nessun costo. La pioggerellina aveva ripreso fitta e monotona a picchiettare sulle foglie degli olmi. A un tratto la porta si aprì e Zina apparve sulla soglia. Indossava una vestaglia e calzava un grazioso paio di babucce ricamate. «È permesso?» chiese sorridendo con civetteria. «Ma certo, si accomodi!» rispose Russaro contento di quella visita che interrompeva il corso cupo dei suoi pensieri. E la Zina gli si avvicinò con una rapida mossa, si sedette sulle sue ginocchia. Russaro sentì che la ragazza si era profumata e che sotto la vestaglia non aveva addosso nulla. La strinse a sé e la coprì di baci. Allora la Zina gli disse: «Sentimi, Fedka, come puoi avere a che fare con quella donnaccia? Mi piacevi tanto prima che ti prendi lei tra le braccia. Come hai potuto sostituirmi con quella sgualdrini? Guardami bene, guardami come son fatta!» Balzò in piedi e ritta davanti a lui aprì la vestaglia. Nessun dubbio che avesse un corpicino davvero delizioso, nessuna meraviglia quindi che la visita finisse come aveva consigliato la madre e come ambedue del resto desideravano. Quando la Lisa tornò l'indomani dopo una notte passata con un altro amante, notò subito un mutamento nel contegno di Fedka verso di lei. Inizia di non accorgersi della freddezza, con cinguettare e a fargli le sue solite moine. Poco dopo la porta della stanza si aprì ed entrò Zina senza neppure aver bussato. Però richiese a Fedka lanciando uno sguardo sdegnoso alla Lisa e poi uscì sbattendo la porta. «Ma chi è quella lì?» chiese la Lisa piuttosto interdetta, e Lussero non sapeva che cosa rispondere. «È la mia fidanzata.» «Fidanzata? E non me ne hai mai parlato?» «Soltanto ieri abbiamo deciso di sposarci.» «Ah sì? Ma bravo, benone, questo significa che mi butti fuori come uno straccio sporco. Finché avevi bisogno di me era il tuo tesoro, la tua cocca e tante scemenze, e adesso che sei fidanzato sono meno del manico della scopa. Beh, non ho detto questo io.» «Me ne vado senza aspettare che mi scacci, sta tranquillo.» Scattò in piedi e si avviò verso la porta credendo che Fedka la trattenesse, ma questi invece si rallegrò della piega che avevano preso gli eventi. Meglio di così, tolse di tasca alcune banconote e le porse alla ragazza, che gliele strappò di mano e le scaraventò a terra con un gesto furioso, ma poi si chinò immediatamente a raccoglierle, sputò con rabbia e uscì sbatacchiando la porta. «Possiate crepare tutte e due, carogne!» We'll be right back. nascosta come vie democrazi. Arabacciato mi soffoca.